È colorato il fame. È meraviglioso. È colorato che è sta. C'è un colore il fame. Dicono che ha messo giù più linee che Pablo Escobar. Pablo Escobar. La tua macchina la chiamano me, la perla colombiana. Sai perché? Perché è tutto piano, chiamo del colombiano. Vedi che qua al Maragia c'è un 41 B. Nel! Santa Manna, il piccino che ti spara. Noi del club.